26 luglio la città scendeva in strada tra le macerie, felice e incredula, dopo che la radio nei bar aveva annunciato la caduta del duce. Era finito il fascismo. Il giorno prima il re d'Italia aveva accettato le dimissioni di Mussolini da tutte le cariche e aveva nominato a capo del governo il maresciallo Badoglio. Quello stesso giorno la Casa Littoria e le sedi rionali dei gruppi fascisti vennero assaltate e distrutte, così come subito si creò una folla di fronte alle nuove. Io stavo correndo con Silvio per il quartiere, verso l'Amos Marmotti, quando incontrai Claudio. «Dove vai, Biund? Vieni, andiamo a prendere tuo padre». Quando superammo la piazza Adriano per prendere Corso Vittorio, già si vedeva la folla che chiedeva libertà per i prigionieri. Claudio si fece strada tra le persone, portandoci fin davanti al portone, dove un uomo piccolino stava tenendo un comizio. Finalmente, dopo 20 anni di schiavitù e di galera, Claudio si guardava serio intorno. Ci accennò che il piccolo uomo si chiamava Luigi Capriolo. Dopo 20 anni di dolori inenarrabili, finalmente il fascismo se n'è andato. Ma i nostri compagni giacciono ancora nelle carceri, disse l'uomo. La folla non lo fece finire. Fermò un camion dal corso e lo fece entrare in retromarcia contro il portone, sfondandolo. Claudio ci fece l'occhiolino. State qua, che vado a recuperare Eugenio. Entrò tra i primi, con una mano a stringere la pistola in tasca. Le guardie non si misero in mezzo e poco dopo i primi carcerati guadagnavano la luce del giorno. La gente si abbracciava, rideva, piangeva. Ed ecco Eugenio, solo un po' più vecchio, un po' più stanco, che già parlava fitto con il suo amico e compagno di mille battaglie. Mi riservò uno sguardo, un sorriso e una carezza sulla testa. Mentre ci allontanavamo, il piccolo uomo saliva tra le colonne centrali dell'ingresso. Oggi avete compiuto il primo atto di giustizia. Ora bisogna chiedere la pace ad ogni costo.